Per tutte, carissime persone che state ascoltando, anzi state seguendo questa diretta, quindi questa nuova diretta di Nerella di una gamer, la rubrica oramai è settimanale, vediamo se riusciamo a rispettare questa cadenza anche in futuro. Nel frattempo che faccio entrare l'ospite, introduco di nuovo di che si tratta questa rubrica per chi la segue per la prima volta. Praticamente, visto che io sono psicologo, mi occupo anche di videogiochi, come i videogiochi possono in qualche modo aiutare le persone a trasformare il loro cervello, mi sono detto perché non prendere dei gamer, dei giocatori, intervistarli su quello che è il loro gioco preferito o il gioco che vogliono parlare. Qua, come e quanto si aprono proprio su queste esperienze, in cosa li ha aiutati quel videogioco, in cosa li ha considerati. Ed eccola! Ciao! Eccomi qua. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Vabbè, sarò io a imboccarti a farti parlare perché, soprattutto, a differenza di altre volte, il gioco di cui parlerai stavolta non lo conosco, o meglio, lo conosco, ma non ci ho mai giocato. Mentre Disco Elysium l'avevo giocato e rigiocato. Eliza ci sto giocando adesso. Non avendo mai posseduto un Nintendo DS, non ho mai potuto giocare a. Presentalo tu. The world ends with you. Ok, prima di parlare del gioco, no, presentati un po' tu. Lia, chi sei? Lia, che fai in questo mondo? Diciamo che sì, niente di particolare, ma la mia passione è videogiocare di base. Però tendenzialmente come persona mi piace far liste. Sono bravo a far liste e alcuni mi hanno anche definito cane da tartufo, nel senso che sono brava a scovare giochi e offerte varie. Tipo una persona mi chiede magari un videogioco che non lo trova e io vado, rispondo. Potresti farti pagare questa cosa se sei bravo, quindi Ci sto già pensando effettivamente, magari una commissione, un pensaci, euro così. anche di più, pensaci seriamente. Comunque, stiamo a dire, quindi ovviamente sei una gamer, non saresti qua. In particolare, quello che ho visto, dimmi tu se sbaglio, è che comunque sei particolarmente appassionato di Nintendo e o da non esclusivamente, però c'è cioè, qua lì per la Nintendo in generale e per l'estremo oriente. O mi sbaglio, una mia percezione errata di questo Beh, diciamo che ho iniziato proprio la mia passione con la GameCube grazie a degli amici, quindi ho sempre patteggiato per Nintendo fin dall'inizio. È che quando è stato il momento in cui c'era da prendere una console fissa, purtroppo mio padre e mia sorella hanno votato per la PS2. Quindi, però c'è stato anche un beneficio, nel senso, un giorno mi ha preso un gioco perché c'era il drago sopra, ma era PEGI 18. E sì, mi è piaciuto molto e infatti adesso è anche abbastanza ricercato. Si chiama Drakengard, non so se Draken conosci il Sangan, gioco. Draken, sì, l'avevo sentito. Drakengard, Draken Gun. sì. Me lo ricordo vagamente, dovrei vedere. Sì, è uno di quei giochi rari che valgono almeno un polmone a prenderli, tipo ancora boxati. Un polmone è una Beh, mille. no, dai. No. Penso che sì, penso di averlo visto al massimo a 80 euro comunque. Beh, Non è. mica è Il poco. 2, il 2, sì, il 2 l'ho visto anche sui 100 euro, però il 2 è già più soft. Fatti sempre pagare la copertina se qualcuno perché trovi. Comunque, Diciamo che l'uno non è proprio un titolo facile, per chi è psicologicamente debole, diciamo, c'è di tutto e di più. te l'hai giocato quindi ti escludi già, ti dici che sei, ti escludi già tra quelli psicologicamente deboli, come ha detto adesso, deboli Beh, di oddio, stomaco, diciamo così. forse. Non ho mai dato fuoco a nessuno, non ho mai cercato di mangiare bambini, quindi... Anche se diciamo spesso, che... anche se purtroppo lo sai, io come altri colleghi, altri stiamo combattendo questo stigma, ma purtroppo è sempre verso io poi gli anziani e tutto, non è vero, però vabbè, non è l'argomento di stasera. All'epoca mia girava una voce addirittura che un ragazzino, non ho mai capito se fosse un ragazzino o un bambino, si era buttato giù dal balcone credendo di essere Spyro, per dire. Ma non lo so poi se questa notizia era vera o falsa. Sta notizia si ripercuote a qualsiasi cosa, in qualsiasi contesto, con il gioco perso di qualche volta per Spider-Man, per Spyro, per la qualunque, per ex auditore, quindi abbastanza una leggenda. Cioè. Non dico che è impossibile, però... Vabbè, ma andiamo subito al succo, alla cifra. The World Ends With You. Che gioco? Presentaci un pochino i giochi, quando è un gioco complessissimo, cioè non si riesce, non potremmo stare un'ora solo a parlare del gioco, sugli spunti soggettivi della tua vita, della tua relazione, non potremmo finire. Cerca di fare questa missione impossibile, commenta in 2-3 minuti che cos'è questo gioco, che gioco è, eccetera. In pratica è un gioco che mette, scusa il gioco di parole, ma in gioco il protagonista, perché praticamente il protagonista si ritrova a Shibuya non sapendo come ci è arrivato, non sapendo assolutamente niente, e si ritrova con una spilla in mano e riesce magicamente a leggere i pensieri degli altri e dice: ma che cavolo sta succedendo? Tra l'altro lui, avendo appunto l'amnesia, non si ricorda neanche com'è Shibuya e si ritrova praticamente a dover giocare questo gioco dei demoni forzatamente, ma il suo problema principale è che è praticamente una sociale, non vuole saperne di avere contatti umani vicini, perché dice che è impossibile capire 100% l'altra persona, perché si hanno mentalità diverse e quindi non si riuscirà mai a comprendere appieno le altre persone, e quindi intanto vale neanche provarci. Cioè, questo è il suo... Infatti all'inizio fa un bellissimo monologo, palesando il suo fastidio di stare tra la gente, e dice in inglese, perché purtroppo la versione di essa era solo in inglese, quindi da noi in Italia è arrivata solo in inglese, e diceva: tutto il mondo di cui ho bisogno sono io ho i miei valori, quindi voi tenetevi i vostri, ok? Non capirò mai le persone, mai lo farò e mai lo proverò, cioè, quindi mai le ho capite, mai ci proverò a capirle. Capito? Però quasi solipsista, nel senso: sono io, ma comando io, cioè sono io al centro di tutto, perché io mi posso conoscere, io sono l'unica persona che è. L'altra persona è qualcosa di oltre, diciamo, cioè avverte molto quasi sta separazione me e gli altri, finché gli altri non possono, cioè non possono, come hai detto tu, non posso entrare nella testa completamente di tutti gli altri, comunque ci sono delle differenze che mi impegna a fare, tanto ci sono queste differenze incolmabili tra me e gli altri. Molto, molto particolare sta sua prospettiva. Sì, esatto. Infatti io quando l'ho giocato avevo 14 anni, ero in piena fase di realizzazione del mondo, mettiamola così, perché io sono cresciuta anche con Yu-Gi-Oh! Che faceva dell'amicizia il fulcro dell'opera, e vedevo che man mano alle superiori i vecchi amici scomparivano, non ti davano più dietro, e quindi mi ritrovavo da sola, e quindi un po' mi faceva rabbia questa cosa. Avendo preso in mano sto gioco, ho detto: cazzarola, mi posso relazionare col personaggio iniziale, in pratica. Il gioco giusto al momento giusto, praticamente. Esatto, nell'età giusta, ma neanche nell'età giusta, proprio nella tua, nella situazione giusta. Quindi vedo forse sì, ma una... anche nell'età giusta, perché il protagonista ha circa 15 anni, quindi io ho giocato a 14, voglio dire, non è tanto distante. Quindi hai trovato subito questa affinità proprio a livello col protagonista, per cui ti si sei trovato, ha detto, come hai detto tu, cazzarola, rispetto a tutti sì. gli altri prodotti che mi ci sbattono in faccia, e l'amicizia, e volemo se bene, facciamo tutti insieme, questo che almeno dal suo punto di partenza è io voglio stare da solo col mondo, perché riassumo, diciamo... No, riassumo, cerco di esprimere quello che ho capito io, diciamo, voglio stare da solo col mondo, non mi interessa gli altri, bene come stesso, fondamentalmente era questo il suo punto di partenza. Sì. Diciamo, che di poi... base mette il titolo in un'altra prospettiva, The World Ends With You, quindi il mondo finisce con te, e quindi in questo caso il tuo mondo, cioè, è un limite. Definisce il tuo corpo, praticamente, cioè non, oltre non è più il mio mondo, in questo senso vuol dire molto... Sì, ma anche mentalmente, nel senso che dopo, più avanti, anche ci sarà un personaggio che appunto dice il mondo finisce con te, quindi se tu ampli i tuoi orizzonti, ampli anche il tuo mondo. Quindi dai una speranza di più al mondo anche. Tu mi hai detto che comunque si ritrova a Shibuya, cioè che questo quartiere immenso di Tokyo, questo quartiere commerciale, diremo, uno dei più noti, uno di quelli là che vediamo, e vediamo che il cyberpunk esiste praticamente nella Terra, perché ci stanno tutti sti neon, tutti sti tabelloni luminosi, sti LED, eccetera, eccetera. È anche uno dei quartieri, quindi, tra i più popolati, mi sa, è che anche, diciamo, uno dei in quelli in cui la Yakuza, diciamo, c'è un po' di mezzo. È anche, diciamo, il quartiere di Hachiko. Ricordiamo chi è Hachiko, perché non si ricorda. Infatti, è il cane che praticamente aveva questo padrone che andava... ogni giorno in treno a lavorare, faceva il professore se non ricordo male, sì, e quando ha avuto un infarto ed è morto, lui continuava a aspettarlo fino alla fine dei suoi giorni, insomma, per quello gli hanno fatto la statua alla fedeltà. Sì, sì, per una decina d'anni ha andato sempre tipo alle 5 precise in stazione, quando sapeva che tornava in attesa del suo padrone. Quindi che questa sia una delle storie che ha più commosso il Giappone in generale, fa parte della... E c'è la statua, mi sa, no? Come hai detto, appunto, proprio a Shibuya, no? Sì, sì, infatti è una più o meno delle prime cose che si vedono, infatti... nel gioco, diciamo, il gioco rema contro il protagonista, perché il gioco dei demoni non si può fare se non in coppia, quindi deve per forza fare un patto con un altro personaggio, e questo scatenerà tutto il resto, insomma. Insomma, quindi, che poi mi sa che sono comunque personaggi che in qualche modo non è che scegli, ti vengono imposti di volta in volta, quindi tocca al protagonista fare i conti con persone sempre diverse alla fine, da se stesso l'una dall'altra, per che magari all'inizio, da quanto mi puoi far capire, può smadonnare e dici ma che palle, ma poi c'è un'evoluzione da questo punto di vista, immagino, no? Infatti il gioco rema proprio tutto intorno al protagonista, che evolve mentalmente, psicologicamente. Infatti, è uno spoiler, vi avviso, alla fine verrà a contatto con un personaggio che è praticamente lui se fosse continuato a stare da solo. Ah. E quindi chiuso nella sua mentalità, e bloccato mentalmente, cioè bloccato a quello stato di io ho ragione e basta, tutti si devono adeguare. Sì, molto solipsista, direi, volendo usare un termine molto complesso, diciamo, che alla fine vuol dire quello che hai detto tu. No, è interessante questo fatto che alla fine lo mette in confronto su quasi, quasi come se fosse, diciamo, A Christmas Carol, diciamo, con il Natale, diciamo, del, il fantasma del suo Natale futuro, quasi su come sarebbe, sì, sì, praticamente. Più o meno. E, mo, banalmente viene subito da pensare ai hikikomori, però in realtà i hikikomori sono gente che quando sono a contatto con, magari stanno chiusi in casa e tutto, però in realtà sono aperti tendenzialmente al mondo tramite il digitale, il gaming e i social e altro, sono le uniche finestre che hanno di socialità, quindi è qualcosa di diverso rispetto, diciamo, a quello che magari una persona può pensare, ecco, i hikikomori, cioè semplicemente una persona che ha questa caratteristica di voler stare tendenzialmente da solo, però ha tutte queste occasioni di aprirsi. E questo è già comunque uno spunto, cioè sto fatto della crescita, comunque dello scoprire le relazioni in un certo modo, è già qualcosa che già in qualche modo può essere, cioè mi vedo io sempre nella prospettiva, volendo usare questo gioco con qualcuno che magari sì, è isolato e tutto, che in qualche modo spinge tramite il gioco a vedere, guarda, si può fare diversamente, si può venire a patti, diciamo, con altre persone, scoprendo in qualche modo, cercando di che può essere in realtà, a lungo andare può essere disfunzionale rimanere soli con se stessi, si può trovare un modo di interagire con gli altri e tutto, cioè, a te tu mi hai detto che ti sei ritrovata, diciamo, un po' come riesci a sentire, sì, oppure sì. Ok, tu mi hai detto che comunque ti sei rivista molto nel protagonista, mi ricordi come si chiama, così? Neku Sakuraba. Ti sei ritrovata molto in Neku Sakuraba, ma poi hai vissuto in qualche modo anche la sua evoluzione lì dentro, ti sei rivista un po' in questo, oppure dimmi tu. Sì, ma non solo perché appunto psicologicamente c'era una situazione di questo tipo, ma anche perché il protagonista, in confronto ad altri videogiochi, è molto perspicace, molto intelligente, quindi non è quel classico, ah, c'è un indovinello, te lo devi risolvere tu giocatore. No, è il personaggio che è abbastanza intelligente da arrivare a una soluzione, a un pensiero più elaborato, quindi mi sono molto appassionata a questa cosa qua. Sì, è molto già caratterizzato di sé di base, perché di solito è vero, ci sono i giochi di ruolo, devo dire, più quelli là di stampo occidentale, in cui spesso il protagonista che interpreti hai carta bianca sullo suo sviluppo, eccetera, eccetera. Poi ci sono delle eccezioni come The Witcher, in cui c'è già il personaggio che è prestabilito come carattere e tutto, eccetera, eccetera. Invece quelli di stampo più orientale magari tendono a avere una trama di personaggi molto forti, diciamo, già ben definiti, ben caratterizzati. E la cosa magari, quando si fa un personaggio che ti devi creare tu alla base, che ti dai tu uno spunto, una personalità, spesso viene fatto per garantire maggiore immedesimazione, però a volte anche il personaggio che di per sé ha già il suo mondo, è già il suo mondo, quindi è già ben caratterizzato, ben accettato. Anche questo in realtà, anche se in parte può essere diverso, diciamo, da una persona, anche questo può garantire immedesimazione, perché anzi, essendo una persona che ha quelle caratteristiche e che poi subisce una certa evoluzione, la storia comunque è già piano prescritta, tagliata a misura su quel personaggio, una persona che si rivede le caratteristiche, vede una persona che può fare eventualmente un percorso simile, diciamo, anche al livello metaforico, simbolico, magari uno che un personaggio di per sé è all'inizio, lo credo all'inizio, di elaborare, però possono servire, diciamo, due tipi di persone diverse, entrambi le persone, non necessariamente un personaggio che è vuoto, che te lo credo all'inizio, dici i medesimi di più rispetto a uno che già ben ha definito altro. No, è interessante quello, perché come dimostri tu, un personaggio che era sempre caratterizzato, però comunque ti ci sei rivista molto, in qualche modo hai apprezzato che c'era questa sua individualità, diciamo, al di fuori del fatto di quello che gli volevi far dire, far fare. Sì, anche perché ultimamente almeno penso che il discorso di farsi un personaggio proprio che alla fine è muto e non può veramente interagire con gli altri personaggi sia un po' abusato. Sì, tipo Zelda, Crono, mi ricordo quella più classica, però queste qua già sono per esempio orientali, nonostante abbiamo detto sono molto caratterizzate. Devo dire, Crono di Crono Trigger sono il classico personaggio muto che però all'interno, però cioè, questo è all'interno di un mondo che già, magari compensi però con i personaggi di questo, però anche io ho sempre preferito qualcosa di più caratterizzato, però amo Chrono Trigger, amo quei 3-4 Zelda che ho giocato, volevo dire, quindi tu mi hai detto che proprio questo gioco ti è capitato, come abbiamo detto, nel momento giusto, proprio al posto giusto, praticamente. Ricordiamo che per Nintendo DS, quindi inizialmente, tu l'hai giocato proprio su Nintendo DS. Sì, infatti. Eccolo. Tra l'altro, sì. No, dimmi. No, volevo semplicemente dire, perché è stata una storia un po' divertente trovarlo, nel senso che avevo letto su una rivista, credo, che di sto gioco e mi ricordava molto un altro gioco, però di un'altra serie, tutto che non c'entrava. Però i tratti erano molto forti, come The World Ends With You. Allora mi sono incuriosita, solo che nel negozio dove siamo andati io e mia madre non c'era. Mi ha detto, guarda, c'è in un altro centro commerciale qua vicino. Mia mamma aveva appena preso la patente, mi fa, vuoi che andiamo? Io non ero proprio convintissima, però ho detto, vabbè, andiamo. E quando siamo arrivati ho letto dietro la scatola che c'era scritto cosa c'era scritto? Sfrutta la tua passione per la musica e la moda. E ho detto, la moda. Solo che avevo paura di mia madre, ho detto, e adesso se non sono convinta lo lascio giù, dopo che abbiamo sprecato benzina per arrivare fin qua, cosa faccio? E quindi sì, è stato un po' divertente la cosa, ecco. Quindi, infatti mi hai anticipato, perché ti stavo chiedendo proprio questo alla fine, come ti sei imbattuto in questo gioco, lo conoscevi già e volevi giocarci, oppure ti è capitato tra le mani a caso, però vabbè, mi rispondi adesso. Infatti ha detto delle cose, una cosa interessante, che comunque molto spesso la tua, come hai detto, la tua passione per la musica e per la moda. Infatti, perché proprio la musica e la moda? Perché comunque a livello di terminologia di cose, che gira molto intorno proprio a questi, a queste arti, diciamo, a queste tematiche, a questo gioco. Sì, in primis la musica, perché come penso che avrai notato, non è con le cuffie su e al collo al suo MP3. Quindi è simpatico anche pensare che tutta la colonna sonora, dato anche che è cantata, sia quello che ascolta Neku nel mentre giochiamo. Quindi, e poi tra l'altro, essendo che i produttori di questo gioco hanno raccolto un po' anche tutte le mode di Shibuya, infatti ci sono le Hairspray Queen, per dire, cioè. E quindi la musica è molto variegata, cioè passiamo da un rock, da un pop, anche la canzone finale della versione DS, che poi è cambiata nella versione Switch, non so perché, penso per diritti, è molto, molto soft, cioè, infatti quando ho finito il gioco ho pianto come una bambina, però sì, c'è una bella... Per un gioco, mai. Io pochissimo, però infatti penso di aver pianto per due giochi in tutto. Ah, io quindi, già almeno il doppio. Io già almeno il doppio. chiamerà. Comunque, ma a parte questo, a parte diciamo, sì, il fatto che comunque c'è una colonna sonora, un'impronta musicale molto forte, poi è bel fatto l'MP3, cioè proprio coglie proprio diciamo lo zeitgeist di quel momento, perché è uscito nel 2007, proprio della gioventù proprio giapponese, non solo proprio proiettato in quegli anni. Poi un'altra cosa tra parentesi, come hai detto, comunque una è un personaggio molto focalizzato su se stesso, molto egocentrico, ma in senso psicologico, nel senso che vede solo praticamente quello che è il prodotto della sua mente, se stesso, però è proiettato in un in Shibuya che di per sé è caoticissimo, c'è gente dalla mattina alla sera, anche nel gioco, anche nel gioco si vede gente che però, vabbè, c'è un'altra sorta di dimensione sovrapposta, quanto ho capito, in cui si vede comunque gente passeggiare avanti in sì, esatto, strada in continuazione, c'è sempre questo contorno, cioè non è uno Shibuya alternativa isolata, sempre immersa in quel mondo in cui comunque c'è sempre questo, cioè comunque lo stare, diciamo, è, cioè, cosa usiamo noi quando vogliamo, diciamo, stare in mezzo alla gente, però isolarci, o meglio segnalare che vogliamo avere le cuffie, come hai detto tu, cioè spesso è un indice, è diventato tutto per i fatti mia, lasciare stare in metropolitana e altro. E quindi comunque, come hai detto tu, arricchisce questo fatto, il fatto che comunque una persona vuole stare per i fatti suoi e va in giro con le cuffie per le sue. Collegando a comunque una colonna sonora molto forte, eccetera, anche nel gioco praticamente, per esempio, c'è il compositore, il produttore, ci sono queste varie entità che gestiscono sto gioco nel gioco, o mi sbaglio? Non ho capito l'ultima parte, scusami, perché ogni volta c'è, ci sono dei bui. Tranquilla, tranquilla, dei silenzi. E in realtà sono io che faccio. Ora l'ho fatta poco. Non è che ci sono silenzi, è che proprio salta sì, il volume, quindi non capito. È una questione di linea. Ci sono nel gioco varie entità che sono il compositore, il conduttore, sì, cose qua, diciamo. Quindi un po' di questo, come che, la musica al di fuori dal punto di vista, anche dal punto di vista simbolico, come si riflette nel gioco, perché sono queste entità che in qualche modo gestiscono questo gioco in cui si trova ritrovato proiettato il protagonista, mi sbaglio. Sì, sì, c'è proprio una scala gerarchica tra demoni e anche appunto il direttore, il compositore. Solo che in inglese c'era un po' meno di difficoltà a capire, perché c'era il composer e il compositor, e mi pare una roba del genere, e quindi avevo fatto un po' di confusione all'epoca. però sì, c'è proprio una scala gerarchica. E a me piace anche The World Ends With You, perché c'è, come hai detto, che Shibuya è un miscuglio di persone, ce ne sono di tutti i generi, anche dall'aspetto religioso su The World Ends With You c'è un missiotto, diciamo. Infatti non so se hai visto il murales di Udagawa lì sul gioco. No, no, non ce l'ho presente, me lo recupero. Adesso murales Udagawa. Udagawa, praticamente c'è un gatto che fa così con le mani, però gli occhi sono stati censurati nella versione occidentale, ed è un peccato perché secondo me avevano un bel significato, perché aveva nella versione occidentale ha due stelle degli occhi, mentre la versione orientale ha un crocifisso al contrario su uno e il pentagramma sull'altro, quindi cioè sì sì, dei simboli molto forti, cioè da una parte il paganesimo e da un'altra parte diciamo il rifiuto della religione in qualche modo, quindi sì, spesso, anche se a volte ho sentito che a volte è successo il contrario, che in sì, ma questa è una cosa che succedeva spessissimo, spesso per esempio nei giochi giapponesi sono davvero le chiese, proprio le chiese, poi quando vengono trasposte in occidentale diventano qualcos'altro, cioè esplicitamente, non mi ricordo quale gioco in particolare, aveva proprio esplicitamente le chiese con anche l'iconografia religiosa della croce, e quando viene quando subisce, diciamo, l'adattamento occidentale, viene subisce un lavaggio questa cosa qua. Sì, quindi è un po' come questa... quando i giochi che parlano della Seconda Guerra Mondiale vengono censurati dalla Germania, come se il fascismo, sì, e il nazismo non ne fossero mai esistiti. Vabbè, mi la fa un po' ridere come cosa, ma vabbè. Vabbè, non lo fanno perché là c'è davvero una politica molto seria, molto rigida sull'esposizione dei simboli del nazismo. Addirittura so che praticamente ci sono tipo dei negozi che vendono anticaglia con i francobolli esposti dell'epoca, con dei bollini su ogni francobollo a coprire le varie svastiche e tutto. Vabbè. Diciamo che questo lavoro non l'abbiamo fatto in Italia con i nostri relativi simboli, però, e ci ritroviamo dove ci ritroviamo, ma non sfociamo nel politico, perché questa è una trasmissione politica. Per carità. Comunque dicevo appunto di questi simboli, perché alla fine, anche alla fine del gioco, c'è lo Shinigami, quindi il Reaper, quindi quello che in italiano è stato erroneamente tradotto in demone, che si perde dal Reaper, che era in inglese. Mietitore, praticamente, sì, il tristo, esatto, mietitore faceva più capire il suo legame con Shinigami alla fine. E i piani alti dei demoni, che alla fine sono angeli, quindi comunque c'è questo miscuglio tra religione giapponese, comunque orientale, con il cristianesimo comunque. Vabbè, questo succede spesso. Vabbè, l'esempio più eclatante è Neo Genesis Evangelion, con tutte le mitologie ebraiche, simbologie ebraiche, eccetera, eccetera. Quindi spesso in Giappone osano fare queste commissioni che spesso sono molto, molto interessanti. A parte questo, comunque, è un gioco che comunque, come dice, con i mietitori, personaggi, comunque si parla anche esplicitamente di morte, di lutto in qualche modo, mi sbaglio, sì. Sì, esatto, questo è un spoiler, mi raccomando, perché praticamente il personaggio si ritrova a Shibuya a fare questo gioco dei demoni, che lui dice, ma cos'è, uno scherzo, ma gioca a casa tua, zio Billy, e al che a un certo punto, circa il secondo o terzo giorno, arriva il Game Master, che è praticamente un delegato del delegato del delegato, che gestisce la settimana del gioco, che gli dice, oh Ciccio, guarda che sei morto, e lui, come sono morto? E quindi c'è uno shock anche là, la prima volta che io ho giocato ho detto, ma come sei morto? Come, quando, perché? E praticamente il tutto, il gioco dei demoni è per mettere appunto a confronto i vari giocatori e vedere chi si evolve di più durante la settimana, perché ognuno praticamente mette in gioco un valore di cui è più fortemente attaccato. Ad esempio, la prima partner, Shiki, mette come in inglese entry fee, adesso non mi ricordo come è stato tradotto in italiano. Tranquillo. Il suo aspetto fisico. Lei dice all'inizio non capivo perché, ma poi perché praticamente... scusate, sto facendo un po' di confusione, ma tranquilla. Parlarne, quindi non ti piace. Vai. In pratica, la prima partner di Neku prende l'aspetto della sua migliore amica, che lei pensa che sia brava, intelligente, simpatica, il massimo che si può aspirare. Lei infatti è invidiosa di lei. Io vorrei essere bella, simpatica, intelligente quanto lei, però appunto quando entra nel gioco dice, cavolo, l'aspetto della mia migliore amica, felicissima, però dopo si accorge giustamente che dentro è sempre la stessa, quindi anche là avrà un'evoluzione nell'accettarsi dell'accettare se stessa e del lavorare dove è più brava. Infatti con la sua migliore amica volevano diventare stiliste, solo che la sua migliore amica faceva i modelli e lei faceva la sarta, e però lei non accettava di fare solo la sarta, gli sembrava poco. Quindi durante la prima settimana, infatti, lei fa un'evoluzione anche lei come personaggio, e quindi accetta quello che sa fare, accetta i suoi difetti. E in ogni caso, il gioco, come dicevo prima, è un'opportunità per i vari giocatori di dimostrare quanto si cresce, quanto si meriti una seconda opportunità di vita. Di base, questo, chi vince ha una seconda opportunità di vita. Una seconda opportunità di vita, però, come detto, con un opportuno percorso di crescita in cui, come detto, si impara a accettare i propri limiti, a sfruttare le proprie potenze e tutto. È una seduta, cioè praticamente un percorso psicoterapeutico, praticamente, un gioco quanto molto fatto per metà, però davvero quello che mi ricordo è questo, anche perché, come detto, c'è l'occasione anche di confrontarti con diversi altri personaggi, con diverse altre caratteristiche, e magari, cioè, non è quel personaggio che identifichi di più, ma sarà un altro personaggio che ha delle caratteristiche diverse, come detto, di giorno in settimana in settimana nel gioco cambieranno, diciamo, il partner di Neko, quindi ogni volta si avrà modo comunque di avere sempre diverso in qualche modo. Ed è interessante pure questo messaggio, allora, a parte il fatto comunque di dover gestire in qualche modo, di dover capire, ok, si è nell'aldilà, è una sorta di al di là, però viene dato con questa seconda occasione, però, dimostrando in qualche modo di cambiare, diciamo, di accettare, o perlomeno cambiando, accettando la situazione, o mi sbaglio, diciamo. Sempre quel problema là. Ogni tanto va. Diciamo, il messaggio viene detto: sì, ok, viene dato un'occasione, diciamo, di fare, diciamo, una cosa che qua è positiva estrema, nel senso che sono persone che sono nell'aldilà, persone che stanno nell'aldilà, diciamo, che viene dato un'altra occasione, previo però una certa presa di consapevolezza, un certo cambiamento, una certa trasformazione, un certo percorso di trasformazione da fare, non da soli, però insieme ad altre persone, come non fai sempre in parte in coppia, bisogna lavorare in coppia, come hai detto, in modo estremo, diciamo, ripercorrere, può essere, diciamo, davvero non voglio dire necessariamente un percorso psicoterapeutico, però, diciamo, mettendo in estremo che la morte ti viene data una seconda possibilità, comunque voglio riflettere: se questo è morto e gli si viene data una seconda possibilità per cambiare, figurati noi persone normali che siamo qui, che forse dovremmo fare uno sforzo, qualche sforzo in meno, piuttosto che ritornare in vita, però in qualche modo è una sorta di ritornare in vita, forse di nuovo, comunque, piuttosto di ritornare alla propria solita vita, percorrendo gli stessi errori, gli stessi schemi mentali che ti ha portato a stare male, a provare invidia per la tua amica, come dicevi adesso, ti viene una seconda possibilità per rifarsi, per riflettere su se stessi e per ritornare più rinvigoriti di prima, magari non perfetti, immagino che non è che poi la gente che usciva, cioè la gente che ritornava poi siano perfetti, ma almeno confrontandosi meglio con tu come ne sei uscito quando l'hai finito? Beh, a parte, come ho detto prima, che ho pianto, perché anche il fatto che Neku all'inizio della storia si metta le cuffie e alla fine della storia, proprio dopo i titoli di coda e tutto, si vede Neku che se le toglie e le lascia per strada. È una scena bellissima. Infatti, alla fine cosa succede? Il titolo si modifica. Il titolo si modifica e diventa "Il mondo inizia con te". Bellissimo. Bellissimo. Guarda, purtroppo non ho un DS e so che per Switch è un po' bruttino, è venuta una conversione, però mi sta venendo voglia di recuperarlo prima o poi, perché a parte che posso usarlo per lavoro, diciamo, innanzitutto, ma poi perché, cioè, io sapevo che era un bel gioco, hai visto, è un bel gioco, ma chiaro, però comunque, a parte le recensioni, quello che ho letto, nessuno qua mi è venuto a dire guarda, è bello per questo, questo e quell'altro. E le cose che sta dicendo un pochino, però, vanno a favore di una mia, diciamo, posizione, una posizione mia personale, che è del fatto che gli spoiler non necessariamente rovinano, sono qualcosa che distruggono, anzi forse con questi spoiler mi ha spinto di più a volerci giocare. Oddio, dipende sempre dalla concezione della persona, perché a me ad esempio hanno spoilerato la fine del libro di Narnia e sinceramente me ne sono sbattuta, cioè devo leggerlo, devo immedesimarmi, devo arrivare al punto per elaborare la cosa, cioè sinceramente mai spoiler, ni. Ovvio che secondo me questo, ad esempio un mio amico lo deve giocare, gli dico guarda giocalo in blind, perché assolutamente, perché ad esempio la cosa che sono morti, cioè a me all'epoca che non ho detto cavolo, cioè sembrava tutto normale, però effettivamente giocandolo una seconda volta anche alla fine ti accorgi quando c'è la transizione, perché anche lui che si ritrova a Shibuya, cioè te lo fa vedere disteso a terra con la gente che gli passa intorno e allora c'è qualcosa che non va, mentre alla fine quando torna in vita c'è la stessa gente che prima andava in giro, vedi fermi a guardare lui che era per terra, quindi capisci un po'. Però all'inizio non te ne rendi conto, perché appunto dici vabbè, è l'inizio, cosa vuoi che capisca? Però dopo ci fai caso. Innanzitutto, sì, questa è la cosa bella, perché cioè, che nel momento in cui... Riportando diciamo la metafora sul percorso diciamo di crescita, che può essere un terapeuta o meno, comunque il fatto che spesso la vera crescita, il vero inizio c'è quando finisce diciamo la terapia, finisce il percorso, perché spesso c'è lo stereotipo che gli psicoterapeuti vogliono tenerti per sempre, in realtà no, diciamo è quasi, deve essere, cioè eticamente deve essere avvertito come una sorta di fallimento se dopo mesi, anni, questo sta ancora appunto da capo, diciamo l'obiettivo è fare in modo di poi spicchiarli da solo quando finisce, sì, come un bambino che deve imparare a camminare, se hai il genitore che lo tiene su, però dopo devi camminare anche, tu. Infatti questo stavo dicendo, banalmente fa vedere anche diciamo quello che può essere un percorso di crescita, di diventare indipendenti in qualche modo, cioè quando finisce quel percorso, quella relazione diciamo a stretto giro con i genitori da cui dipendi, diciamo oggettivamente dipendi, perché ti danno la paghetta, ti danno da mangiare, da tutto, quando finisce tutto questo in realtà è il vero inizio, perché poi il giovane, la giovane virgulto poi dovrebbe essere pronto a un certo punto ad affrontare il mondo, non sempre succede, però comunque il percorso ideale è questo. È molto bello questa foto, che proprio quando è finito il gioco in realtà inizia in qualche modo, è davvero, nonostante siano stati degli spoiler, tu metti ancora di più a voler giocare a questo gioco, quindi ti ringrazio su questo. Poi se vuoi ti svelo anche una chicca, perché il vero titolo non è The World Ends With You, perché l'hanno dovuto cambiare in Occidente per via di un vecchio film, perché all'inizio, pensa quanto amo questo videogioco per aver imparato il nome giapponese, perché non me lo ricordavo mai, ero là che me lo ripetevo, dai, devo impararlo. Il vero titolo sarebbe Subarashiki Kono Sekai, che tradotto sarebbe It's a Wonderful World. Sì, ricorda quindi... più il Louis Armstrong, forse risuona un pochino con It's a Wonderful Life, il di Frank Capra, in cui quelli che muore a Natale e poi rivede cosa succede a delle persone che lo scontano da morto praticamente. E forse a questo si rifaceva, l'hanno dovuto cambiare eccetera eccetera, però ero detto, diciamo, in, spesso si perdono queste cose dal passaggio di adattamento, traduzione, è un po' un peccato, però, però hanno, secondo me hanno scelto un titolo comunque che si attiene al gioco stesso, quindi. Sì, è molto iconico, e poi si attiene proprio alla dimensione del cockpit, cioè comunque è qualcosa che si è ripreso comunque dal gioco stesso, non è che sono diventate di Samarianza, perché comunque viene questo gioco il perché quel titolo, diciamo. E è interessante questo, però alla fine questo ha aiutato a trasformare in qualche modo, ha lasciato qualcosa, a parte il fatto che l'adori eccetera eccetera, che comunque è un fattore positivo, perché ti permette di connetterti con altra gente che ha giocato, oppure di che l'altra gente è bello giocare, cioè, stai facendo con me adesso in qualche modo. Se devi raccontare, devi che cosa ha lasciato questo gioco e perché proprio questo gioco e magari non un altro gioco, magari sta al secondo barra terzo posto della tua ideale classifica. Beh, ho scelto di portare questo videogioco primo perché appunto avrai capito anche tu che è molto psicologico e devo dire che appunto io mi ritengo una persona molto intelligente, diciamo che è l'unico pregio che mi affido, ecco, quindi mi ha colpito molto anche appunto come ti ho detto prima per l'intelligenza del protagonista e mi ha lasciato, sì, anche perché non parla solo di dare fiducia agli altri, ma parla anche di paradossalmente prenderla nel fondoschiena, quindi avere la fiducia spezzata da una persona di cui ti fidavi, di cui ti sei sforzato di fidarti. E quindi parla, sì, fiducia, tradimento, parla di visioni diverse, visioni uguali e contrarie addirittura, perché appunto, come ti dicevo prima, cioè, è uno dei personaggi finali che è praticamente Neku se fosse rimasto nel suo guscio. Quindi all'epoca, appunto, quando l'ho giocato, è come se mi fossi trovata anch'io nella situazione di Neku, quindi di avere un personaggio uguale e contrario. Questa cosa è bella, cioè, dimostra ancora una volta che comunque i videogiochi, nulla togliere a libri, film e altro, comunque hanno una forza, diciamo, trasformativa quasi, di poterci accompagnare in qualche modo, di una presa di consapevolezza, di un cambiamento, cioè, che non dico non è uguale, però comunque è notevolissima, diciamo, proprio per il fatto che di base si gioca una cosa divertente, di per sé gratificante. Magari ci sono anche dei giochi, tra virgolette, non divertenti paradossalmente in qualche modo, però questo era molto impegnativo, sì, su di esso. Questo è impegnativo, sì, immagino che è impegnativo a livello di combattimento, cioè non solo a livello di, perché comunque è un action RPG, quindi non è che semplicemente devi usare strategia per selezionare le azioni da fare, cioè devi proprio farle le azioni, sì, cioè devi dare le sditate proprio sul. Ma la cosa difficile è che su una mano dovevi tenere il pennino per muovere Neku e dall'altra col controller dovevi muovere l'altro, il partner, quindi avevi due schermi da tenere l'attenzione su tutti e due. Cavolo. Ci ho messo anni a avere. Quindi anche, guarda, rientra anche in quello che è un pochino più il mio ambiente, è proprio anche un training cognitivo, cioè un esercizio proprio che insegna ad allenare l'attenzione, a focalizzare, a spostarli in modo dinamico su due stimoli differenti e cercare, diciamo, di farli combaciare, diciamo. Anche questo, cioè, quest'altro elemento che aggiungo al fatto che dice cavolo devi giocare, però bisognerebbe avere, sì, tra l'altro appunto ti obbliga il gioco a controllarli tutti e due, nel senso che per avere una mossa speciale c'è questa palla verde che si muove a seconda di quanto muove un personaggio, quindi prima muovi Neku, poi si sposta al partner e quindi devi controllare il partner in modo da scambiare questa pallina e quindi fare una certa percentuale e arrivare alla special. Il problema ulteriore poi è che ogni partner ha un suo sistema, nel senso, ad esempio Shiki aveva il sistema memory, quindi aveva una carta, tu dovevi selezionare la stessa carta. Praticamente in altro veniva una carta, non so, con la stellina, tu a seconda di come muovevi le freccette dovevi andare a selezionare la stellina. Un casino comunque, però comunque con l'allenamento, col giocarci eccetera eccetera si diventa bravi anche in questo, diciamo, questo quindi anche fa anche da training dell'attenzione, quindi sì. un coordinazione mano coordinazione okay, mano, sì sì, ma anche attenzione focalizzata, attenzione divisa, sono vari tipi di attenzione che sono diversi da loro, l'attenzione non è una cosa, sono vari tipi diversi di attenzione. Ti lascerei concludere, cioè non saprei come concludere, cioè mi abbia reverso la conclusione, perché forse vuoi anche mangiare, diciamo, io ho già cenato, però io andrei avanti un'altra ora. Non posso andarci io, perché sennò vabbè. No, ma prima mi avevi chiesto della moda, che non sì sì anche risposto. La moda sì. Vai. Allora, ci sono due cose riguardanti la moda, nel senso, uno, questo gioco va sulle spille, cioè tu per, non so, avere vari psico, quindi tipo vuoi dare fuoco al nemico, devi usare una determinata spilla, magari è di un determinato brand. E quindi cosa succede? Tu usando un determinato brand influisci sulla moda a Shibuya e quindi salirà di graduatoria. E tu stesso ne avrai benefici, perché le spille di quel brand saranno potenziate, al contrario di quelle che magari dell'ultimo brand. Infatti ci saranno missioni che ti diranno porta avanti questo determinato brand. La seconda cosa è il vestiario. In pratica anche nel vestiario ci sono i brand, e quindi ci saranno delle missioni tipo vestiti in un determinato brand. Comunque ogni vestito ha le sue potenzialità, poi comunque devi fare amicizia con il commesso per sbloccarti le abilità dei vestiti, tipo, non so, Neku ha 30 HP in più, per dire. Oppure addirittura può essere anche svantaggioso, nel senso, metti Neku in rischio di morte, però ti alza l'attacco, per dire. No, sì, quindi tipo una sorta di limit break, quasi, diciamo, quasi al... Se vuoi un po' di sfida. Sì, sì, sì, sì, se vuoi un po' di sfida, sì. Cioè, è bello anche sto fatto, perché ti permette, guarda, che in realtà hai potere sull'influenzare il mondo che ti circonda con i brand, portando avanti questi brand, però in qualche modo poi ne trai beneficio anche tu. Il fatto che comunque non necessariamente la devi subire, diciamo, la moda, ma la puoi anche... in qualche modo crearla, puoi anche, diciamo, aiutare a diffondere, quasi imporla per trarne beneficio. Comunque, sempre ci vedo sempre un'ottica proprio di empowerment, di sentirsi comunque che si hanno più capacità di quelle che magari uno si sente, che si ha più possibilità di manipolare, diciamo, il mondo, che più capacità di influenzare il mondo che ci circonda, rispetto a volte che magari ci possiamo sentire piccoli, indifferenti e incapaci, in balia delle influenze del mondo. No, è interessante proprio questa cosa. E mi avvierei alla conclusione. Se devi riassumere con una parola sola, diciamo, il tuo rapporto, diciamo, oppure quello che per te rappresenta The World Ends With You, che parola sceglieresti? Oddio, una parola difficile. Perciò te lo chiedo, se era facile non... Oddio, non saprei. Forse userei la parola io, nel senso io, appunto, di evoluzione, di maturazione interna, e quindi di espansione della propria mentalità, della propria, di cercare di comprendere anche quello che è al di fuori dell'io, che non è sempre facile comunque. No, non è assolutamente facile. E con io dico che ci salutiamo. Mi è piaciuto moltissimo parlare con te di sto gioco, che ripeto conoscevo a spanne, giusto per aver letto, aver visto qualche video, ma non ci ho giocato. Ora mi è venuta la scimmia di giocarci, quindi vado a vedere, anzi mi aiuta a trovare una DS usata a un prezzo, a un buon prezzo magari. Ma tipo, DS se ne trovano. Sì, lo so. Il problema è il gioco. Lo so, il gioco non si trova, ma sì, magari è un paradosso. So che esce anche per Android, so che esiste anche per telefono, anche se l'esperienza per DS è unica. L'esperienza per DS è unica, credo. Sì. Anche perché quello per la tablet è uguale a quello per Switch ed è nerfato. Sì, sì. Quindi hai meno sfida. Meno speed, ma so anche a livello di controllo di cose, cioè, è stato molto criticato, diciamo. Questo. Sì, no, infatti io l'ho giocato col dito. L'ho giocato col dito. Giusto due conclusioni, giusto due cose, due opinioni sulla, perché hanno fatto anche una serie TV e un sequel recentissimo di dell'anno scorso, di quest'anno. Che ne pensi, esatto, così? Sommariamente, davvero, c'è gli ultimi due minuti per parlare di questo, vai. Allora, la serie animata è fatta bene per quanto riguarda animazioni, ma taglia troppo, secondo me. Taglia troppo perché è un mondo complesso, un mondo che andrebbe più approfondito piuttosto che tagliato. Infatti, soprattutto la cosa che mi secca è che abbiano fatto vedere che Neko ha due spille del giocatore, ma non abbiano mai chiarito il perché. Ed è una cosa importante. È una cosa importante perché fa vedere quanto un personaggio sia subdolo. Per il sequel, allora, io posso dire che l'ho giocato con troppe aspettative, nel senso che siccome il primo praticamente ogni giorno in cui è scomposto il gioco ti dava una schiaffa morale, qui li accumula e ti arriva il pugno in faccia alla fine, in pratica, sul sequel. Quindi la cosa una più graduale, anche... e questa invece proprio la botta finale alla fine. Scusami, ti ho interrotto, vai. Sì. No, no, tranquillo. E per di più, diciamo che rende l'attenzione al personaggio un po' carente, nel senso che a differenza del primo, il secondo si concentra su un gruppo di persone. Quindi fa vedere l'evoluzione del gruppo di persone, ma essendo che è scandito nello stesso tempo in cui è scandito il primo, si perde un po' di perché è ovvio che magari un giorno ti concentri più su un personaggio piuttosto che un altro, e quindi secondo me è un po' più carente del primo, ma come gameplay è molto divertente, devo dire. Infatti ci stavo giocando anche prima della live. Okay. Quindi consigliate anche questo, più della serie TV. La serie TV l'ho detto prima. Sì, infatti, cioè, l'ho detto più della serie TV. Ah sì, beh, io la riguardo quando ho voglia di più The World Ends With You, la riguardo senza problemi, però sì. La riguardo più che altro perché appunto è di ottima di qualità di animazione, quindi vabbè, magari mi recupero anche io, però magari gioco prima, dai, seguo l'ordine, diciamo, delle cose come andrebbero fatte. Dunque, sì, no, ti perdi tutto. Io direi che concludiamo qua, è stato davvero un piacerone, cioè, perché poi quasi per caso ci siamo trovati, che tu praticamente avevi ripubblicato un mio post, quello sul Dia de Muertos, sui giochi per gestire il lutto, sì. E poi ho detto... Tutta colpa di Death Door. Death Door, che d'altro stai giocando, è carinissimo quel gioco, a me piace tantissimo quel gioco. Sì, beh, sto giochicchiando in alternanza con Neo, devo dire. Sì, sì, quello, se ti concentri a trovare davvero tutte le cose nascoste, diciamo, a platinarlo, lì ti ci diverti un casino, perché davvero ci sono delle cose, delle chicche, soprattutto tutta la parte post-game, una parte molto corposa, dopo, diciamo, il boss finale, uno che è bellissimo, il vero finale, te lo suggerisco, se non tanto se continua a piacerti. No, mi sta piacendo, anche perché ho giocato a vari Zelda prima, quindi la curiosità, sì, vabbè, zeldiana molto, dell'andarsi a spulciare. Sì. Ti dico a amici che sono molto, cioè, molto più appassionati di Zelda. Io ho giocato del Zelda, con il Zelda non mi reputo appassionato, però sono giochi bellissimi, quelli che ho giocato. Amici che hanno giocato tutto il Zelda hanno detto questo davvero coglie molto lo spirito del Zelda, cioè, è molto divertente per andare a incubare qualsiasi cosa, eccetera, eccetera, tutte le chicche, tutte le cose. Poi c'è un altro gioco molto simile che è Tunic, che pure a giocare quello, è molto, molto, molto zeldoso anche questo, diciamo. Sì, fisico. Sì, ho visto, solo che io sono più per il fisico, quindi aspetto la versione fisica. Okay. Sì, perché ho una mia mentalità sul digitale, diciamo. Ci sta, che non è mai tuo, diciamo, in qualche modo. Sì, perché possono anche tirartelo via, sì. Del momento all'altro invece... posso tirar via. Il fisico, bene o male, rimane, cioè, magari meglio farsi delle copie, perché col tempo, anche il CD, cioè la cartuccia conservata meglio, nel corso di decine, centinaia di anni, sì, a un certo punto vanno a perdersi i dati, però diciamo, per me sono due mondi che devono combaciare, in qualche modo devono continuare a comunicare tra di loro, perché dove poi fallisce il fisico c'è il backup digitale dove si può produrre altro. No, infatti adesso con la Switch, col cloud passo i salvataggi, sì, cioè, se ho voglia di giocare con quella principale, se ho... Molto bene, sì. Lia, la gente dove ti può trovare? A parte, dici un pochino i tuoi canali, le tue, dove la gente può trovare? Dove può vedere quello che fai? La tua collezione, perché ti sei un po', diciamo, bandi una collezione di cose. Beh, per ora ho Instagram molto attivo, pubblico ogni lunedì, mercoledì e venerdì. Più di me. YouTube per ora è sospeso, ma più che altro perché devo avere un computer decente per tornare a fare video, perché purtroppo l'inizio di sto anno si è praticamente, ha fatto harakiri il computer, quindi dobbiamo comprarne uno nuovo. E Twitch non sono ancora attiva, però spero che entro marzo prossimo dovrei essere operativa, insomma. Un work in progress, va bene. E ti ringrazio con davvero. YouTube, sì. Con YouTube avrò un bel restyling, perché prima facevo qualsiasi cosa che mi capitava in mente, ma adesso siamo quasi pronti per il let's play, quindi dai. Non sono pronto io e forse non sarò pronto mai, però complimenti. Vabbè. Seguite lì in questi canali, metterò questo video in collaborazione, così c'è anche sulla tua pagina, perché mi piace dividere le cose, mi piace non solo per dire la live, no, mi piace fare cose, dividere queste cose, quindi in ogni caso vedrete che lei poi dal suo profilo potrete vedere tutti i suoi link, immagino dal suo profilo, poi eccetera eccetera, soprattutto in prospettiva futura, perché ora a marzo io sto là, sto là che è pronto, che dice, ma allora ha fatto sto canale, sì o no? Bisogna vedere a quanto saliranno i prezzi delle componenti dei computer. Brava che te lo vuoi comporre, brava, mi piace sto approccio. Il mio ragazzo c'ha sta fissa. Impara a farlo, perché è divertente comporlo il PC. Con questo ti saluto, è stato davvero un piacere enorme, davvero, che ripeto, mi hai parlato piacere di Zelda anche per me, che non conoscevo, sì. Poi comunque rimaniamo in contatto e niente, io chiudo questa live adesso, auguro un appetito a chi la sta vedendo adesso, buon qualsiasi cosa, a chi la vedrà in differita, e niente, ti saluto, ciao, alla prossima, e andate da via. Ciao cara, buonasera. Grazie tantissime per l'opportunità. Niente di che. Gran bella chiacchierata. Ciao. Grazie. Ciao, grazie di tutto. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.